Quando scesero, zio Pallet osservò con una certa finezza che la signora, secondo lui, aveva dovuto mostrare il suo cappello ed era questo che le aveva trattenute così a lungo di sopra. A Tom questo tempo era parso ancora più lungo perché se n'era stato seduto in un affliggente imbarazzo sull'angolo di un divano proprio di fronte a zio Pallet, che lo guardava con un ammiccamento dei suoi occhi grigi e di tanto in tanto gli si rivolgeva con un «Signorino!» «Beh, signorino, che cosa abbiamo imparato a scuola?» Era una domanda classica di zio Pallet. E sempre Tom prendeva un'aria timida, si passava una mano sul viso e rispondeva «Non lo so». Ed era così imbarazzante di star seduto tête à tête con zio Pallet che Tom non riusciva neppure a guardare le incisioni sulle pareti, né le gabbie degli uccelli, né gli straordinari vasi di fiori. Non vedeva null'altro che le ghette dello zio. Non già che Tom fosse messo in soggezione dalla superiorità intellettuale dello zio, anzi, era ben deciso a non voler diventare un gentiluomo di campagna, perché non gli sarebbe affatto piaciuto d'essere un buffo tipo come lo zio Pallet, con quelle sue gambe a stecco, un mollaccione, veramente. La timidezza di un ragazzo non è in alcun modo segno di soverchiante rispetto, che, anzi, mentre voi gli dimostrate un'incoraggiante benevolenza, pensando che gli si senta sopraffatto dalla vostra età e dal vostro sapere, 10 volte contro 1 gli sta trovandovi enormemente noioso. La sola consolazione che io vi possa suggerire è che probabilmente i ragazzi greci pensavano la stessa cosa di Aristotele. Solo quando avrete domato un cavallo recalcitrante, o pigliato per il collo un carrettiere, o quando avrete in mano un fucile, solo allora questi timidi giovinetti avranno la sensazione che voi possediate un carattere veramente ammirevole e invidiabile. Quantomeno io ho la più assoluta certezza circa i sentimenti di Tom Tulliver a questo riguardo. Nei suoi anni più teneri, quando portava ancora il collarino di pizzo e la cuffia, era stato veduto più volte intento a guardare attraverso le sbarre di un cancello, mentre faceva dei gesti di minaccia col suo piccolo indice e lanciava alle pecore un brrr inarticolato, allo scopo di gettare il terrore nelle loro anime attonite. Dimostrava così fin da allora il suo desiderio di dominio sugli animali inferiori, sia selvatici sia domestici, compresi i maggiolini, i cani dei vicini e le sorelline, il che ha costituito in tutti i tempi una qualità molto promettente per i destini della nostra razza. Ma Mr. Pallet non cavalcava mai altro che un piccolo puledro ed era il meno cacciatore degli uomini perché riteneva pericolose le armi da fuoco, come quelle che sono suscettibili di scaricarsi da sole senza che nessuno lo voglia. Così Tom non mancava di buoni motivi allorché, in una conversazione confidenziale con un compagno, aveva descritto lo zio Pallet come un rammollito, avendo però riguardo di soggiungere subito che era un tipo molto ricco. L'unica circostanza che rendesse meno gravoso un tête-à-tête con zio Pallet era che gli portava sempre con sé una varietà di pasticche, di gocce alla menta, e ogni volta che la conversazione mancava di argomenti, colmava quel vuoto offrendo una vicendevole consolazione di quel genere. «Ti piacciono le pasticche alla menta, signorino?» Era una domanda a cui bastava una tacita risposta quando fosse accompagnata dall'offerta dell'articolo in questione. L'apparire delle bimbe suggerì a zio Pallet la consolazione sussidiaria di certe piccole focacce dolci, di cui teneva sotto chiave una provvista per mangiarle personalmente nei giorni di pioggia, ma i tre ragazzi avevano appena tra le dita quelle tentatrici squisitezze che la zia Pallet li pregò di astenersi dal mangiarne finché non fossero giunti i piatti e il vassoio, poiché con quelle focaccine friabili avrebbero fatto un pavimento tutto coperto di briciole. Lucy non ne fu molto contrariata, perché quelle focacce erano così carine che le pareva perfino un peccato di mangiarle. Ma Tom, cogliendo il momento buono in cui i parenti stavano chiacchierando, ne fece presto presto due bocconi che si masticò alla chetichella. Quanto a Maggie, incantata come sempre dall'incisione di Ulisse e di Nausicaa che zio Pallet aveva acquistato come una bella storia della scrittura, lasciò subito cadere il suo dolce. E con un disgraziato movimento lo schiacciò sotto i piedi. il che fu causa di grande agitazione per zia Pallete e di un vivo senso di onta per Maggie, a tal segno che ella cominciò a disperare di poter udire per quel giorno la tabacchiera musicale, finché, dopo matura riflessione, le venne pensato che Liu si godeva di abbastanza favore per poter avventurarsi a chiedere una sonatina. Lo disse sottovoce a Liusi, e Liusi, che faceva sempre ciò che da lei si desiderava, si avvicinò tranquillamente allo zio e, diventando rossa fino al collo, mentre con le dita si stuzzicava il collarino, domandò: «Vorreste per favore suonarci un pezzetto, zio?» Liusi pensava che la tabacchiera musicale suonasse delle così belle arie in virtù di qualche eccezionale talento di zio Pallet, e a vero dire la cosa era considerata sotto questa luce dalla maggior parte dei vicini di Garum. Prima di tutto era stato Mr. Pallet a comprare quella tabacchiera, poi era bravo a caricarla e sapeva in precedenza che aria avrebbe suonato, senza contare che il possesso di quell'unico strumento musicale era una prova che nella mentalità di Mr. Pallet non c'era poi quel perfetto vuoto che altrimenti gli si sarebbe potuto attribuire. Ma zio Pallet, quando lo si pregava di mostrare le proprie doti, non le diminuiva mai con un consenso troppo pronto. «Vedremo», era la risposta che dava sempre, astenendosi con cura da ogni segno di compiacenza finché non fosse trascorso un adeguato numero di minuti. Zio Pallet aveva un programma per tutte le grandi occasioni sociali e per tal modo si cautelava contro una troppo penosa confusione ed una imbarazzante libertà di scelta. Forse l'incertezza rese più grande il piacere di Maggie quando l'aria fantasiosa ebbe inizio. Per la prima volta ella si dimenticò completamente d'avere un peso sul cuore e che Tom era in collera con lei. Per tutto il tempo che durò, silenzio, grato murmure del coro, sul suo volto si dipinse, mentre ella sedeva immobile a mani giunte, quella radiosa luce di felicità che a volte confortava sua madre, con l'idea che Maggie potesse talora parer bella, adonta della sua pelle bruna. Ma quando la musica cessò, balzò ella di scatto correndo verso Tom e gli gettò le braccia al collo dicendo: «Oh, Tom, non è bello!» Perché non giudichiate troppo rivoltante l'insensibilità di Tom al sentire che gli provò contro Maggie una nuova collera per questa carezza non chiesta e a suo giudizio inspiegabile? Debbo dirvi che gli teneva in mano il suo bicchiere di vino di primule e che la lo scuoté così forte da fargliene versare la metà. Bisognava che gli fosse stato un vero latte miele per non rispondere irritato: «Guarda qui, adesso!» Tanto più se il suo risentimento fosse sanzionato, come era infatti, da una generale disapprovazione della condotta di Maggie. «Ma non puoi proprio star tranquilla, Maggie!» disse la madre stizzita. «Le bambine non debbono venire a farmi visita se si comportano a questo modo», disse zia Pallet. «Eh già, siamo troppo sgarbati, signorina», disse zio Pallet. La povera Maggie si rimise a sedere e tutta la musica le era volata via dall'anima, e i sette diavoli erano tornati ad insediarvisi. Mrs. Tulliver, non prevedendo altro che male fatte fin tanto che i ragazzi rimanevano in casa, colse la prima occasione per insinuare che oramai si erano riposati dalla gita e potevano uscire a giocare. E zia Pallet diede il permesso, ingiungendo soltanto che non uscissero dai sentieri inghiaiati del giardino e, se volevano veder mangiare i polli, li guardassero di lontano dal cavalcatoio. Restrizione che era stata imposta da quando Tom era stato colto in flagrante delitto di correre dietro al pavone, con l'illusoria speranza che quello per il terrore avrebbe perduto una delle sue penne. I discorsi sulla moda e le cure materne avevano momentaneamente distolto Mrs. Tulliver dal pensiero dei dissapori con Mrs. Glegg, ma ora che il grande argomento del cappello era esaurito e i ragazzi fuori dei piedi, rinacquero le inquietudini della vigilia. «Mi pesa sul cuore come non era mai successo», disse, per cercare di entrare in argomento. «Che sorella Glegg se ne sia andata di casa mia in quella maniera? Sono sicura di non aver avuto l'intenzione di offendere mia sorella.» «Ah», disse zia Pallet, «è difficile darsi una ragione di ciò che può fare Jane. Io non ne parlerei mai con estranei, fuorché col dottor Turnbull, ma la mia idea è che Jane viva con troppa meschinità. L'ho detto a Pallet tante volte e lui lo sa benissimo. È proprio lunedì scorso, ha fatto 8 giorni che me l'hai detto mentre uscivamo dal tè in casa loro. disse Mr. Pallet, cominciando a carezzarsi il ginocchio e a ricoprirselo col fazzoletto, come era sua abitudine allorquando la conversazione prendeva una piega interessante. È probabile, disse Mrs. Pallet, perché tu ti ricordi di quando ti dico le cose meglio di quanto me ne ricordi io. Pallet ha una memoria davvero meravigliosa, seguitò guardando pateticamente verso la sorella. Me la vedrei brutta se dovesse capitargli un colpo, perché è sempre lui che si ricorda di quando devo prendere i rimedi del mio dottore. E ne sto prendendo di tre diverse qualità adesso. Ci sono le pillole vecchie, una notte sì e una no, poi le gocce nuove alle 11 e alle 4, poi le misture effervescenti a volontà, recitò Mr. Pallet con una punteggiatura regolata da una pastiglia che aveva sulla lingua. Ah, forse sarebbe meglio per la sorella Glegg se andasse ogni tanto dal dottore, invece di masticare rabarbaro di Turchia ogni volta che le succede qualcosa, disse Mrs. Tulliver, che naturalmente mise senz'altro il vasto argomento della medicina in rapporto con Mrs. Glegg. È spaventoso pensare, disse zia Pallet, alzando le braccia e lasciandole ricadere, come la gente giochi con la propria salute. È proprio un volere insultare la provvidenza. Perché ci sarebbero i dottori se non li chiamiamo? E quando poi si ha il denaro per pagarli, i dottori, allora non è neppure decoroso, come ho detto tante volte a Jane. Ho vergogna che i conoscenti lo sappiano. Beh, noi non abbiamo proprio da vergognarci, disse Mr. Pallet, perché il dottor Turnbull non ha un'altra cliente come te in tutta la parrocchia, ora che la vecchia Mrs. Sutton se n'è andata. Pallet conserva tutte le boccette delle mie medicine, lo sai, Bessie? Disse Mrs. Pallet. Non vuole che io ne venda neppure una. Dice che è giusto che la gente le veda quando me ne sarò andata. Riempiono già due scaffali del grande ripostiglio. Ma, soggiunse cominciando a piangere, ma sarà grazia se arriveranno a riempirne tre. Potrei andarmene prima d'averne terminata una dozzina di quelle piccole. Le scatole delle pillole sono nel comodino in camera mia. Te ne ricorderai, sorella? Ma delle cartine non rimarrà nulla da mostrare, salvo le ricette. Non parlare così di andartene, sorella, disse Mrs. Tulliver. Non mi rimarrà più nessuno che possa interporsi tra me e la sorella Glegg quando tu te ne sarai andata. E non ci sei che tu che la possa persuadere a rappattumarsi con Mr. Tulliver, perché sorella Diane non è mai dalla mia, e se anche lo fosse, non ci sarebbe mai da aspettarsi che possa parlare come quelli che hanno una fortuna indipendente. Beh, tuo marito è un carattere difficile, lo sai, Bessie? Disse Mrs. Pallet, ben disposta da natura a mettere il suo profondo abbattimento al servizio della sorella, non meno che al proprio. Verso la nostra famiglia non si è mai comportato con quella cortesia che dovrebbe. I figlioli ne seguono l'esempio. Il ragazzo è molto malizioso, sfugge le zie e gli zii, e la bambina è dura e bruna. È la tua disgrazia, Bessie, e me ne duole per te, perché tu sei sempre stata la mia prediletta e abbiamo sempre avuto gli stessi gusti. So che Mr. Tulliver è un po' pronto e dice delle cose stravaganti, disse Mrs. Tulliver tergendosi una piccola lacrima sull'angolo dell'occhio, ma sono certa che da quando m'ha sposata non è mai stato uomo da opporsi a che io ricevessi bene in casa nostra le persone della mia famiglia. Oh, non vorrei farti le cose peggiori di quel che sono, Bessie, disse Mrs. Pallet compassionandola, perché temo che anche senza questo avrai abbastanza dispiaceri e tuo marito ha già da prendersi carico di quella sua povera sorella con tutti quei figli. E poi ha la mania delle cause, dicono. Temo che alla sua morte vi lascerà ben poveri. Queste cose, naturalmente, non le lascerei mai dire da estranei. Questa prospettiva della propria situazione era naturalmente ben lontana dal rallegrare Mrs. Tulliver. La sua immaginazione non si metteva in moto tanto facilmente. Ma ella non poté difendersi dal pensare che il suo caso era ben duro, dal momento che gli altri lo ritenevano tale. Sono sicura, sorella, che non potrei fare di più, disse, stretta dal timore che le sue future disgrazie potessero essere considerate come un meritato castigo e provocare quindi una rassegna generale della sua passata condotta. Non c'è donna che lavori di più per i suoi figli, e sono sicura che nella pulizia di questa annunziata, quando ho tirato giù tutte le cortine dei letti, ho lavorato più che le due serve messe insieme, Senza contare l'ultimo vino di Sambuco che ho fatto. Magnifico, io lo offro sempre con lo Xeres, sebbene la sorella Gleg mi dia della stravagante. E la passione che ho io di tenere le mie vesti in ordine e di non girare per casa come una strega, che non c'è nessuno nella parrocchia che possa dire qualcosa contro di me, nemmeno per ciò che riguarda i pettegolezzi e la maldicenza, perché io non voglio male a nessuno e nessuno da perderci se mi manda a regalare un pasticcio di porco, perché i miei pasticci possono tener testa ai migliori dei miei vicini. E la biancheria è così in ordine che se dovessi morir domani non avrei da vergognarmi. Una donna non può fare di più di quel che può. Ma tutto questo non serve a nulla, lo sai, Bessie? Disse sua sorella, piegando la testa da una parte e fissando pateticamente i suoi occhi sulla sorella. Se tuo marito getta via i denari, è vero che se si dovesse fare un'asta e la gente comprasse i tuoi mobili sarebbe già una consolazione di pensare che li hai tenuti ben puliti, ma c'è poi la tua biancheria con le tue cifre da signorina che può andare a finire chissà dove. Oh, sarebbe una cosa ben triste per la nostra famiglia. Mrs. Pallet scuoteva il capo lentamente. Ma che posso farci, sorella? Disse Mrs. Tulliver. Mister Tulliver non è un uomo che si lasci dare dei consigli, manco se andassi dal pastore e mi imparassi a memoria quel che dovrei dire a mio marito. Ad ogni buon effetto. Certo che io non ho la pretesa di intendermi dell'impiego del denaro e di tutte queste cose. Io gli affari degli uomini non potrò mai capirli come sorella Glegg. Eh già, in questo tu sei come me, Bessie, disse Mrs. Pallet, e io credo che sarebbe molto meglio che Jane facesse pulire un po' più spesso quello specchio a mano, che la settimana scorsa era tutto pieno di macchie, invece di dare dei consigli alla gente che ha più rendita di quanta ne abbia mai avuta lei, e di spiegar loro ciò che debbono fare del proprio denaro. Ma Jane e io siamo sempre state in contrasto. Lei voleva le vesti a righe, a me piacevano i puntolini. Anche tu ami i puntini, Bessie, in questo siamo sempre andate d'accordo. Intenerita da quest'ultima rimembranza, Mrs. Pallet guardava pateticamente la sorella. Sì, Sophie, disse Mrs. Tulliver, mi ricordo che avevamo tutte e due la stessa veste turchina a puntini bianchi. Io adesso ne ho messo un pezzo in una coperta da letto e se tu volessi soltanto andare da sorella Glegg a persuaderla a far la pace con Tulliver, lo troverai molto gentile da parte tua. Tu per me sei sempre stata una buona sorella. Però il meglio per Tulliver sarebbe che andasse lui personalmente a far la pace, dicendo che gli è spiaciuto d'aver parlato con tanta avventatezza. Se si è fatto imprestare del denaro da lei, non dovrebbe passarci sopra così, disse Mrs. Pallet, che in tema di principi non si lasciava accecare dalla propria parzialità e non dimenticava quanto sia dovuto alle persone di fortuna indipendente. Oh, è inutile parlarne, disse la povera Mrs. Tulliver con molta tristezza. Se anche mi mettessi giù sulla ghiaia a ginocchi nudi davanti a Tulliver, egli non si umilierebbe mai. Bene, ma non puoi aspettarti che io persuada Jane a chieder perdono, disse Mrs. Pallet. I suoi nervi passano tutti i limiti. È già grazia se non l'hanno ancora fatta uscire di senno, quantunque nella nostra famiglia non ci sia mai stato nessuno che sia andato al manicomio. Oh, non ho mai pensato che chieda perdono, disse Mrs. Tulliver, ma se soltanto volesse lasciar correre e non chiedere indietro i denari, cosa che ad una sorella non è tanto difficile ottenere per un'altra sorella. Il tempo poi aggiusterà le cose e Tulliver si dimenticherà di tutto e torneranno amici. Mrs. Tulliver, come vedete, non sapeva che il marito avesse preso l'irrevocabile decisione di restituire le 500 sterline. Quantomeno una tale decisione superava ogni sua capacità di credere. Ebbene, Bessie, disse Mrs. Pallet cupamente, io non voglio concorrere alla tua rovina. Non voglio tirarmi indietro nel renderti un buon servigio, per quanto è possibile, e non mi piace che tra i conoscenti si dica che abbiamo delle liti in famiglia. Lo dirò a Jane, e non ho nulla in contrario ad andarci domani se Pallet non ha nulla in contrario. Che ne dici, Mr. Pallet? Oh, io per me non ho obiezioni, disse Mr. Pallet, che era perfettamente soddisfatto di qualunque piega potesse prendere quella lite, purché Mr. Tulliver non ricorresse a lui per denaro. Mr. Pallet era impressionabile per ciò che riguardava i propri investimenti e non capiva come un uomo potesse star tranquillo circa il proprio denaro fin tanto che non l'avesse convertito in terre. Dopo di aver ancora un po' discusso se non fosse meglio che Mrs. Tulliver li accompagnasse nella loro visita alla sorella Glegg, Mrs. Pallet, osservando che era l'ora del tè, si volse per prendere da un cassetto un delicato tovagliolo di damasco che si puntò davanti a guisa di un grembiale e subito dopo la porta si aprì. Ma invece che il vassoio del tè, Sally introdusse un così impressionante oggetto che tanto Mrs. Pallet quanto Mrs. Tulliver buttarono un grido, il quale fu cagione che zio Pallet inghiottisse di improvviso la sua pasticca per la quinta volta in vita sua, come egli ebbe più tardi a notare. 10. Maggie si comporta peggio di quel che avrebbe creduto. L'impressionante oggetto che fece così epoca per zio Pallet non era altro che la piccola Lucy, con tutto un lato della sua persona, dai piedini fino alla sommità del cappello, bagnato e inzaccherato di fango. Teneva sollevate due piccole mani nere e aveva un viso da far pietà. Per spiegare questa apparizione senza precedenti nel salotto di zia Pallet, dobbiamo rifarci al momento in cui tre ragazzi erano usciti fuori a giocare e i piccoli diavoli che si erano impossessati dell'anima di Maggie in un precedente periodo della giornata, avevano fatto ritorno dopo un'assenza temporanea con tutta la loro forza. Tutti gli spiacevoli ricordi del mattino erano accumulati dentro di lei quando Tom, che si era sentito rinascere i malumori contro la sorella per quello stupido scherzo che gli aveva fatto versare il suo vino di Sambuco, disse: «Su, Lucy, vieni con me!» ed era andato verso il recinto dove c'erano i rospi, come se Maggie non esistesse neppure. Ciò vedendo, Maggie li seguì di lontano, simile ad una piccola medusa con i suoi serpentelli recisi. Lucy si sentiva naturalmente lusingata che il cugino Tom fosse così buono con lei, e poi era così divertente vederlo fare con un pezzetto di spago e solletico ad un grasso rospo, quando questo era già in salvo giù nel recinto, protetto da una rete metallica. Tuttavia, Lucy desiderava che anche Maggie si godesse quello spettacolo, tanto più che avrebbe certamente saputo trovare un nome per il rospo e raccontarne tutto il passato, perché Lucy aveva una mezza credulità piena di delizia per le storie di Maggie sulle cose vive che si incontravano per caso. Come Madama Forfecchia avesse fatto il bucato in casa e uno dei suoi piccoli fosse caduto nel calderone bollente, ragione per cui essa correva così svelta a chiamare il dottore. Tom sentiva un profondo disprezzo per quelle fanfaluche di Maggie e schiacciava subito la Forfecchia come per provare in modo facile, seppur superfluo, l'assoluta irrealtà di una simile storia. Ma Lucy, in cuor suo, non poteva difendersi dal fantasticare che qualcosa di vero ci fosse in tutto ciò, e in ogni caso dal pensare che fosse una graziosa illusione. Così, ora, il desiderio di sapere la storia di un rospo veramente maestoso, aggiunto alla sua abituale tenerezza, fece sì che ella tornasse di corsa verso Maggie a dirle: «Oh, Maggie, c'è un così grosso e buffo rospo, vieni a vedere!» Maggie non rispose, ma le voltò le spalle con un viso ancora più corrugato. Per tutto il tempo in cui Tom parve preferire Lucy a lei, Lucy fu ritenuta partecipe della sgarbatezza del ragazzo. Ancor poco prima, Maggie non avrebbe mai immaginato di poter essere dura con quella topina bianca. Ma fino allora Tom era sempre stato del tutto indifferente a Lucy e Maggie sola aveva avuto la prerogativa di vezzeggiarla e di occuparsene. Ma al punto in cui erano giunte le cose, ella stava cominciando a pensare che le sarebbe piaciuto di far piangere Lucy, picchiandola o pizzicandola, specialmente perché questo poteva fare dispetto a Tom. Mentre era inutile di picchiare lui, anche ad averne il coraggio, perché tanto non se ne sarebbe dato per inteso. E se non ci fosse stata Lucy, Maggie era sicura che gli si sarebbe molto più presto riconciliato con lei. Fare il solletico a un grosso rospo che non ha poi una sensibilità tanto acuta è un divertimento che non tarda ad esaurirsi. E Tom ben presto cominciò a guardarsi attorno per trovare qualche altra maniera di passare il tempo. Ma in un giardino così pettinato, dove non si poteva uscire dal viale, non c'era gran scelta di giochi. L'unico piacere vero che fosse permesso da una simile restrizione era quello appunto di prevaricarla, e Tom cominciò a meditare una visita di carattere rivoluzionario allo stagno distante dal giardino di circa la lunghezza di un campo. Ehi, dico, Lucy, cominciò tentennando il capo in su e in giù con molta intenzione mentre riavvolgeva il suo spago. Che cosa credi che io abbia voglia di fare? Che cosa, Tom? Domandò Lucy incuriosita. Ho voglia di andare allo stagno a vedere il luccio. Puoi venire con me se ti garba, disse il giovane sultano. Oh, Tom, come osi? Disse Lucy. La zia ha detto che non dobbiamo uscire dal giardino. Oh, ma io uscirò dall'altra parte del giardino, disse Tom. Nessuno ci vedrà. E poi poco me ne importa, io scappo a casa mia. Ma io non posso correre, disse Lucy, che non era ancora mai stata esposta a così acuta tentazione. Ah, non ci pensare, te non ti sgrideranno, disse Tom. Direi che sono io che ti ho condotta. Tom si incamminò e Lucy trotterellava al suo fianco, godendosi timidamente il raro piacere di fare una cosa un po' cattiva, eccitata anche dall'idea di quella celebrità, il luccio, a proposito del quale si sentiva affatto incerta se si trattasse di un pesce o di un volatile. Maggie li vide che lasciavano il giardino e non poté resistere all'impulso di seguirli. Timore e gelosia, non meno che l'amore, non possono patire di perdere di vista il proprio oggetto, e l'idea che Tom e Lucy facessero o vedessero cosa di cui ella era all'oscuro riusciva per Maggie intollerabile. Così si tenne indietro di qualche passo, inosservata da Tom, ormai tutto assorto a spiare il luccio. Un mostro d'alto interesse, di cui si diceva che era così vecchio, così grosso e che possedeva un così formidabile appetito. Il luccio, come altre celebrità, non si mostrava quando era spiato, ma Tom sorprese qualcosa che si muoveva rapidamente nell'acqua, il che lo attrasse ad un altro punto sull'orlo dello stagno. Qui, Lucy, le disse a bassa voce, vieni qui, sta attenta, tieniti sull'erba, non mettere il piede dove ci sono state le mucche. Soggiunse indicando una penisola d'erba secca circondata sui due lati da una melma tutta pasticciata, perché nella sprezzante concezione che Tom si faceva di una ragazza era incluso l'attributo di una totale incapacità di camminare nei posti fangosi. Lucy si avvicinò con precauzione, come le era stato ingiunto, e si chinò a guardare qualcosa che somigliava alla punta di una freccia d'oro guizzante nell'acqua. Era un serpente d'acqua, le spiegò Tom. E Lucy finalmente poté scorgere lo snodarsi flessuoso del suo corpo, molto meravigliata che un serpente potesse nuotare. Maggie si era accostata sempre di più, doveva vederlo anche lei, sebbene anche questo, come ogni altra cosa, le riuscisse amaro dal momento che Tom non si interessava che ella lo vedesse. Alla fine si trovò vicinissima a Lucy e Tom, che se n'era accorto, ma non voleva darlo a vedere finché non vi fosse costretto, si voltò e disse: Su, va via, Maggie, non c'è posto per te su quest'erba, nessuno te l'ha chiesto a te di venire. In quel momento c'erano in Maggie delle passioni che si facevano guerra, tanto da scatenare una tragedia, se le tragedie fossero fatte soltanto di passione. Ma l'essenziale, ti megethos, per quanto presente nella passione, mancava poi nell'azione. E tutto ciò che Maggie poté fare con una spinta selvaggia del piccolo braccio bruno fu di buttare la piccola Lucy biancorosa nella melma pesticciata dalle mucche. Allora Tom non poté più tenersi e lasciò andare due pesanti pugni sul braccio di Maggie. Poi corse a tirar su Lucy, che se ne stava là a piangere disperatamente. Maggie si ritrasse presso le radici di un albero e guardò senza rimorso. Di solito in lei il pentimento seguiva rapido ogni azione avventata, ma stavolta Tom e Lucy l'avevano resa così infelice che ella era contenta di distruggere la loro gioia, contenta di metter tutti a disagio, perché avrebbe dovuto soffrire. Tom tardava troppo a perdonarla, per quanto ella potesse aver sofferto. Lo dirò alla mamma, sai, Miss Mag? Disse Tom a voce alta e solenne, appena Lucy fu in piedi ed in grado di camminare. Far la spia non era negli usi di Tom, ma qui La giustizia richiedeva a chiara voce che Maggie fosse sottoposta alla più grave punizione. Non già che Tom avesse imparato a denunziare le proprie vedute in questa forma astratta, egli non parlava mai di giustizia e non aveva la più pallida idea che la sua volontà di punire potesse fregiarsi di questo bel nome. Lucy era troppo compresa del male che le era toccato. La perdita della sua veste più bella e il disagio di essere inzuppata e sudicia per ricercarne le cause che le riuscivano del tutto misteriose, mai e poi mai avrebbe indovinato che cosa avesse fatto a Maggie per indisporla così. Ma sentiva che Maggie era molto sgarbata e irritante, sicché non rivolse a Tom delle magnanime suppliche perché non parlasse, ma si limitava a camminare al suo fianco, piangendo desolatamente, mentre Maggie rimaneva seduta sulle radici dell'albero e con la sua piccola faccia di medusa li guardava andar via. Sally, fece Tom quando giunsero alla porta della cucina, e Sally li guardò muta di stupore, con un pezzo di pane burro in bocca e una forchetta da tosti in mano. Sally, di' alla mamma che è stata Maggie a buttare Lucy nel pantano. Ma che dici? Che Dio ci scampi, come mai siete andati in mezzo a un fango simile? Disse Sally con una smorfia di disgusto mentre si chinava ad esaminare il corpus delicti. L'immaginazione di Tom non era stata abbastanza sagace per prospettarsi tale domanda tra le conseguenze prevedute, ma non appena la sentì pronunziare, intuì dove mirava e che Maggie non sarebbe stata considerata l'unica colpevole nel processo. Si allontanò lentamente dalla porta della cucina, lasciando a Sally quel piacere di indovinare che gli spiriti attivi notoriamente preferiscono ad una verità bella e fatta. Sally, come già sapete, non perse tempo e subito presentò Lucy alla porta della sala, giacché un così sordido oggetto, introdotto nella casa dei pini di Garum, costituiva un troppo grave peso per essere sopportato da una sola coscienza. Per l'amor di Dio! Esclamò zia Pallet dopo di aver preludiato con un grido inarticolato. Ah! Tienila lì sulla porta, Sally! Non lasciarla andar fuori dalla tela cerata, qualunque cosa succeda! Ma è caduta in qualche orribile pozzanghera, disse Mrs. Tulliver avvicinandosi a Lucy per esaminare l'entità del danno subito dalla veste, di cui si sentiva personalmente responsabile di fronte alla sorella Dian. Con vostro permesso, signore, è stata Miss Maggie che l'ha spinta dentro, disse Sally. Mister Tom è venuto a dirlo, e devono essere andati allo stagno perché soltanto là potevano trovare un simile sudiciume. Ecco com'è andata, Bessie, proprio quello che ti dicevo, disse Mrs. Pallet in tono di profetica tristezza. Sono i tuoi figli, non si sa dove andranno a finire. Mrs. Tulliver rimaneva muta, sentendosi una madre indegna. Come al solito l'angustiava l'idea che gli altri potessero pensare che l'aveva commesso qualche cosa di male per meritarsi quelle pene di madre, mentre Mrs. Pallet cominciava a impartire a Sally elaborate istruzioni sul modo di salvaguardare il vestibolo da ogni serio pregiudizio durante l'operazione di spazzolare quel fango. Frattanto, la cuoca stava per servire il tè che i due perfidi ragazzi avrebbero ignominiosamente preso in cucina. Mrs. Tulliver uscì per parlare a questi perfidi ragazzi, supponendo che si fossero lì presso. Invece non fu se non dopo lunghe ricerche che la scoperse Tom, appoggiato con aria piuttosto dura e strafottente al bianco steccato del pollaio, mentre faceva spenzolare dall'altra parte il suo pezzo di spago come un mezzo per esasperare il gallo d'India. Tom, cattivo ragazzo, dov'è tua sorella? Disse Mrs. Tulliver con voce angosciata. Non lo so, disse Tom. La sua sete di giustizia contro Maggie era diminuita dal momento che gli aveva veduto con chiarezza che questa giustizia non poteva essere fatta senza l'ingiustizia di un qualche biasimo alla sua propria condotta. Ma e dove l'hai lasciata? Domandò la madre, guardandosi intorno. Seduta sotto l'albero in faccia allo stagno, rispose Tom, non curante d'altro in apparenza che del suo spago e del suo gallo d'India. Allora va subito a cercarmela, cattivo ragazzo. E come ti è venuto in mente di andare allo stagno e di condurre tua sorella dove c'è il fango? Lo sai, dovunque ci sia da fare delle sciocchezze, lei ne fa. Il sistema di Mrs. Tulliver, quando aveva da rimproverare Tom, era di far ricadere su Maggie in un modo o nell'altro le mancanze di lui. L'idea di Maggie, seduta sola presso lo stagno, suscitò in Mrs. Tulliver un timore abituale, sicché ella salì sul galoppatoio per tranquillizzarsi con la vista della fatale bambina, mentre Tom faceva la sua strada, invero non troppo rapidamente, alla volta di lei. Ah, sono dei bambini così terribili per l'acqua, i miei, disse forte, senza riflettere che non c'era nessuno a udirla. Un giorno o l'altro me li porteranno a casa annegati. Vorrei che quel fiume fosse ben lontano. Ma quando, oltre a non riuscirle di scorgere Maggie, vide addirittura Tom che se ne tornava solo dalla palude, quel sospeso terrore si impadronì completamente di lei, che si precipitò incontro al ragazzo. Vicino allo stagno Maggie non si trova, mamma, disse Tom. Se n'è andata. Potete immaginare le sgomente ricerche e la difficoltà di convincere la madre che Maggie non era dentro lo stagno. Mrs. Pallet osservò che quella bambina, se viveva, avrebbe fatto una fine peggiore. Non c'era nessuno che potesse saperlo e Mr. Pallet, confuso e soverchiato dalla piega rivoluzionaria presa dalle cose, il tè ritardato, il pollame scompigliato da quell'insolito andirivieni, impugnò il suo coltellino come uno strumento di ricerca e prese una chiave per aprire il pollaio, quasi che fosse un luogo dove Maggie potesse presumibilmente starsene nascosta. Tom, dopo un po', affacciò l'opinione che Maggie fosse andata a casa, senza ritenere necessario di attestare che in simili circostanze questo era proprio ciò che gli avrebbe fatto, e la madre s'afferrò a questa idea come ad un conforto. Sorella, per amor di Dio, fa attaccare il cavallo alla carrozza, che mi portino a casa, forse la troveremo per istrada. Lucy, con quella veste sudicia, non può camminare, disse, guardando quella vittima innocente che, avviluppata in uno scialle, stava seduta sul divano a piedi nudi. Zia Pallet non desiderava altro che di trovare la maniera più spiccia per restaurare l'ordine e la pace nella sua casa, e non andò molto, infatti, che Mrs. Tulliver era già installata sul calessino, intenta a guardare ansiosamente davanti a sé il più lontano possibile. Quel che avrebbe detto il padre se Maggie s'era perduta era la domanda che predominava su tutte le altre. 11. Maggie tenta di sfuggire alla propria ombra. I propositi di Maggie, come al solito, erano più vasti di quel che Tom avesse immaginato. La decisione maturata nella mente di lei, dopo che Tom e Lucy se n'erano andati, non era così semplice come quella di tornarsene a casa, no? Ella voleva scappare e andare dagli zingari, e Tom non l'avrebbe veduta mai più. Questa per Maggie non era affatto un'idea nuova. Tante volte si era sentita rassomigliare a una zingara o ad una mezza selvaggia che, quando era disperata, il solo modo di scampare all'infamia era di ritrovarsi in piena armonia con le circostanze, le pareva fosse di vivere sotto una piccola tenda bruna sui terreni del comune. Gli zingari, pensava, l'avrebbero ricevuta volentieri, tributandole il molto rispetto dovuto alla sua superiore cultura. Una volta aveva accennato a Tom le proprie vedute in proposito e gli aveva suggerito che gli poteva tingersi il viso di bruno e così sarebbero fuggiti insieme. Ma Tom aveva respinto con disprezzo quel progetto, osservando che gli zingari erano ladri, che avevano a malapena di che mangiare e come cavalcatura non possedevano che un asino. Quel giorno, comunque, Maggie pensò che la sua miseria aveva toccato un tal punto che la vita zingaresca era l'unico scampo, e balzò dalla radice dell'albero dove stava seduta con la sensazione che era questa la gran crisi della sua vita. Sarebbe corsa dritta fino a raggiungere i terreni comunali di Dunlow, dove certamente dovevano esservi degli zingari, e il crudele Tom e tutti gli altri suoi parenti, che le trovavano sempre a ridire, non l'avrebbero veduta mai più. Mentre correva via, pensò al babbo. Ma poi si riconciliò con l'idea di separarsi da lui, riflettendo che gli avrebbe mandato segretamente una lettera per mezzo di un piccolo zingaro, il quale sarebbe scappato via senza svelare dove ella si trovava, e gli avrebbe giusto fatto sapere che stava bene ed era felice, e gli voleva sempre tanto bene. A furia di correre, Maggie fu ben presto senza fiato, ma quando Tom tornò allo stagno, ella era già alla distanza di 3 lunghi campi, all'inizio del sentiero che portava sullo stradone. Si fermò un poco per prender fiato, riflettendo che fuggire non era una cosa piacevole, fin tanto che non avesse raggiunto il terreno comunale dove erano gli zingari. ma la sua decisione non era venuta meno ed ecco che per il cancello sbucò sul sentiero, senza sapere dove esso l'avrebbe portata, giacché non era quella la strada per cui dal mulino di Dorlcote si veniva ai pini di Garum. Ragione per cui si sentì tanto più sicura, dato che qui non c'era possibilità di venir sopraggiunta. Ma ben presto s'accorse, e non senza tremare, che due uomini si avanzavano per il sentiero incontro a lei. Non aveva pensato di poter incontrare degli sconosciuti, era stata troppo preoccupata all'idea d'essere inseguita dai parenti. Quegli spaventosi sconosciuti erano due uomini in malarnese, con le facce rosse. Uno dei due portava un involto appiccato ad un bastone sulla spalla, ma con grande sorpresa di lei, che temeva di essere biasimata come fuggitiva, l'uomo dall'involto si fermò e con voce tra lamentosa e melliflua le chiese se aveva qualche moneta da dare a un povero. Maggie aveva in tasca un sixpence, donò di zio Glegg, che subito estrasse e diede a quel pover'uomo con un sorriso garbato, sperando che egli si sarebbe mostrato molto benevolo con lei, che era una persona generosa. «È tutto il denaro che ho», disse per scusarsi. «Grazie, piccola signorina», rispose l'uomo in tono men rispettoso e men grato di quel che Maggie prevedeva, e anzi ella notò che sorrideva e strizzava l'occhio al compagno. Proseguì rapida, ma si accorse che i due uomini erano ancora fermi, forse per guardare lei, e poco dopo li sentì che ridevano forte. Improvviso le venne in mente che quelli potessero averla giudicata una povera scema. Tom le aveva detto che i suoi capelli corti le davano l'aria di una povera scema, ed era questa un'idea troppo dolorosa perché la si potesse facilmente dimenticare. Inoltre non aveva maniche, solo una mantellina e un berretto. Era chiaro che non poteva fare una buona impressione sui passanti. E pensò che sarebbe dovuta tornare tra i campi, ma non dalla stessa parte del sentiero donde era giunta, per tema che fossero ancora i campi dello zio Pallet. Svoltò per il primo cancello che trovò aperto e provò un delizioso senso di solitudine nello sgattaiolare dietro le siepi, dopo l'umiliazione di quel recente incontro. Era abituata a girar sola per i campi e si sentiva meno intimidita qui che sullo stradone. A volte doveva scavalcare altri cancelli, ma era un piccolo male. Ben presto sarebbe giunta fuori di tiro e probabilmente in vista dei terreni comunali di Dunlow, o quantomeno di qualche altro comune, perché aveva sentito dire dal babbo che non si poteva fare molta strada senza trovare qualche terreno comunale. Lo sperava proprio, perché cominciava a sentirsi piuttosto stanca e affamata, e finché non avesse incontrato gli zingari, non c'era alcuna prospettiva sicura di pane e burro. Era ancora giorno pieno, perché zia Pallet, fedele alle vecchie costumanze della famiglia Dodson, prendeva il tè alle 4:30, secondo il sole, e alle 5, secondo l'orologio di cucina. Così, sebbene Maggie si fosse messa per strada da circa un'ora, l'oscurità non era ancora imminente sui campi, a rammentarle che sarebbe discesa la notte. E tuttavia le pareva realmente di aver percorso un buon tratto di strada. Ed era davvero sorprendente che i terreni comunali non fossero ancora in vista. Fin qui ella era rimasta nella ricca parrocchia di Garum, dove c'erano grandi estensioni di pascoli, e aveva veduto soltanto un contadino in lontananza. Sotto molti rapporti era questa una fortuna, perché, ignoranti come dovevano essere dei semplici contadini, non avrebbero potuto apprezzare l'opportunità del suo desiderio di andare ai terreni comunali di Dunlow. Però sarebbe stato meglio se ella avesse incontrato qualcuno che le mostrasse la strada, senza voler sapere i suoi affari privati. Comunque, alla fine, terminarono i verdi prati e Maggie, guardando le sbarre di un cancello, poté scoprire un sentiero con grandi prode erbose ai due lati. Non aveva mai veduto prima d'allora un così ampio sentiero e, senza sapere il perché, ebbe l'impressione che i terreni comunali non dovessero essere lontani. Forse perché vide un asino con le pastoie ad una zampa che brucava l'erba della proda, e un asino con quel miserevole impedimento l'aveva già veduto sui terreni di Dunlow quando li aveva attraversati sulla carrozza del babbo. Sgusciò tra le sbarre del cancello ed avanzò con nuova baldanza, quasi quantunque la sua immaginazione non lasciasse d'essere infestata dall'idea di Apollyon e di un bandito di strada con la pistola e di un nano vestito di giallo che strabuzzava gli occhi con una bocca che gli arrivava da un orecchio all'altro ed altri pericoli confusi e misti, perché la povera piccola Maggie aveva insieme le paure di un'immaginazione alacre e le audacie che vengono dagli impulsi indomabili. Si era avventurosamente buttata alla ricerca della sua ignota schiatta, gli zingari, ed ora si trovava su questo strano sentiero dove osava appena di guardarsi ai lati per tema di vedere il diabolico maniscalco col suo grembiale di cuoio ghignante incontro a lei e con le mani sui fianchi. E non senza un sobbalzo del cuore fu colpita dalla vista di un gracile paio di gambe nude levate in aria, coi piedi in su, accanto a un monticello. Essi avevano l'apparenza di un qualcosa di mostruosamente fuori di natura, una specie di diabolico fungo, giacché al primo sguardo ella era troppo agitata per vedere gli abiti cenciosi e la nera testa ricciuta attaccata a quelle.